La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio ovviamente per l'ascolto in diretto in podcast, qui è la versione di Oscar, vi dice subito di che cosa parliamo oggi, se volete chiamarci all'800240024 per gli sms lo sapete, 349-238-6666. Tra le tante leggi promesse che invece cadranno, non vedranno la luce in questo fine legislatura che sarà approvato tra poco, sarà occupato tra poco dalla sessione di bilancio e vedremo poi se aggiusteranno le due leggi elettorali proporzionali figlie delle sentenze di Camera e Senato o se ci sarà Rosatello bis, insomma, ma queste saranno le due cose di fondo, tutto il resto è molto difficile che possa passare. Tra le leggi che quindi promesse fanno invece una fine senza fine e quindi restano senza approvazione, lo ius soli eccetera eccetera, c'è anche, oramai è molto chiaro, una legge che doveva intervenire facendo convergenza, tesoro di molte proposte e l'argomento è, questo è l'argomento di cui parliamo oggi, era la legalizzazione della cannabis, la legalizzazione, non è la liberalizzazione ma la legalizzazione, cioè la svolta antiproibizionista chiesta anche da con energia da grandi magistrati italiani, ricordo tra tutti il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che da anni scrive e dichiara apertamente la svolta antiproibizionista è necessaria per strapparla dalle mani delle grandi reti criminali. Naturalmente ci sono magistrati altrettanto autorevoli e credibili che l'hanno sempre pensata diversamente, uno di questi per esempio è Franco Gratteri, ma voglio ricordarvi solo il lungo cammino di una proposta di legge che si è capito a fine luglio si è poi sfaldata perché in buona sostanza il PD non ha retto all'impianto, perché era dall'inizio della legislatura, proprio dalla primavera del 2013, che il Parlamento si era dato per convergenza e proposte di legge presentate da diverse parti politiche l'obiettivo di intervenire su questa questione. C'erano state 290 firme di parlamentari raccolte tra Camera e Senato con uno schieramento che andava dal PD ai 5 Stelle e il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti insieme a Benedetto Della Vedova che era l'animatore di quella raccolta trasversale di firme aveva depositato una proposta che era diventata quella di convergenza, per così dire, il vicepresidente della Camera, quindi Roberto Giachetti, l'esponente del PD che ha perso anche sul ricalcolo dei vitalizi, altra legge che ovviamente al Senato non verrà approvata dopo che poco prima dell'estate ha infiammato la Camera dei Deputati. Cosa proponeva, alcuni brevi cenni, quella proposta in materia, ripeto, di legalizzazione? Quella proposta indicava una modica quantità fino a 5 grammi di marijuana, 15 nel privato domicilio, come massimo di detenzione legale, introduceva l'idea di una coltivazione a casa fino a un massimo di 5 piantine. Era quindi, per così dire, una svolta antiproibizionista su quantità modiche, ma era il punto di convergenza di molte proposte che erano nate facendo riferimento alle legislazioni che hanno negli ultimi decenni in molte parti del mondo adottato la svolta antiproibizionista, anche proprio per gli effetti negativi che il proibizionismo ha avuto procurando affari aggiuntivi di grande rilievo alle grandi reti criminali. Dopodiché a fine luglio si è capito invece alla Camera che l'imminenza ormai delle elezioni non riusciva a tenere insieme le posizioni diverse del PD. Una parte del PD ha sempre preferito che si levasse la scelta di legalizzazione da questa proposta di legge che andava avanti nelle commissioni, e si è arrivato appunto a fine luglio allo spacchettamento alla Commissione Affari Sociali, la relatrice Margherita Miotto del PD, e quindi praticamente del testo è rimasta poca cosa, cioè si interviene solo in buona sostanza su una correzione circoscritta all'uso medico, e quindi eludendo il grande dibattito di fondo in materia di continuare col proibizionismo oppure andare verso la legalizzazione. Nel frattempo anche il relatore per la Commissione Giustizia, in questo caso, che è l'onorevole Daniele Farina della sinistra, ha dichiarato in questi giorni: io mi dimetto perché è chiaro che in quel testo non mi riconosco più. Ovviamente reazioni di grande delusione dei 5 Stelle, dei radicali, però in buona sostanza la grande occasione persa è quella di dover ricominciare da capo nella prossima legislatura. Quindi tutto il lavoro che era stato fatto per capire l'esperienza degli altri paesi, per approfondire il vincolo tra economie criminali e scelta proibizionista, per l'ennesima volta viene cestinato. E la domanda diventa, comunque la pensiate, cari ascoltatori, e la domanda diventa: possibile mai che tutte le volte che si avvicinano le elezioni nel nostro paese, temi che hanno a che fare con cose come queste, l'abbiamo già visto, abbiamo fatto già una puntata, il testamento biologico, le disposizioni delle ultime volontà, non si possano toccare perché i partiti sono così incerti della vostra opinione, cari ascoltatori, di come fareste pesare nel voto alle urne per le elezioni politiche la vostra convinzione, da preferire evitare gli interventi? Perché questa è ciò che si è capito, la vera ragione per cui non riusciamo neanche questa volta a venire a capo di un dibattito che va avanti da decenni nel nostro paese. Allora, per parlarne abbiamo due ospiti, aspettando che ci diciate meglio così oppure peccato. Abbiamo con noi Marco Cappato, che quanto radicale tesoriere dell'associazione Luca Coscione per la ricerca scientifica e le libertà civili è stato da sempre impegnato a favore della proposta che sembrava decollare e che invece collassa. Grazie di essere con noi, Marco. Grazie a voi, buongiorno. E abbiamo uno scrittore la cui riflessione stamattina, pubblicata con un articolo sul giornale, mi ha colpito molto, perché è espressione della propria vita e della propria esperienza, fatta con il cuore in mano, molto appassionata, molto accogliente, e mi sono detto giustissimo chiamare anche lui. Infatti lo ringrazio molto di essersi reso disponibile. Aurelio Picca, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, Marco, stupito? Hai pensato che ce la si potesse fare? La cosa veramente rattristante è che si arrivi a una soluzione del genere prima di un dibattito parlamentare. Sì, e questo è veramente, al di là di quello che si pensa nel merito, si può essere a favore o contro, ma io penso che in una democrazia dovrebbe funzionare che il Parlamento discute, magari su un tema come questo, lasciando anche la massima libertà ai singoli parlamentari di formarsi un convincimento, discute di fronte all'opinione pubblica, poi ci si devono fare dei compromessi, alla fine della discussione e in vista del voto finale si fanno anche dei compromessi. Invece il metodo malato dell'antidemocrazia italiana è che, come hai ricordato tu, per essere sicuri di non litigare troppo perché arrivano le elezioni dentro i partiti, sì, l'accordo lo si fa nel corridoio prima della discussione, e poi bisogna militarizzare il voto perché sennò c'è il dissenso. Ecco, questo credo che sia veramente un metodo antidemocratico di procedere. Purtroppo sono d'accordo, ma questo significa solo che le forze politiche e i partiti sono così dubbiosi sulla propria stessa radice di rappresentanza che hanno paura. Io insomma adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma mi sembra evidente, visto il tenore delle leggi che finiranno non approvate in questa fine legislatura, su ciascuna di esse ha pesato questo stesso fattore analogo. Se trattassi delle disposizioni di ultime volontà del tema della legalizzazione della cannabis è molto analogo. Vogliamo un secondo ricordare ai nostri ascoltatori che non sono convinti il nocciolo della ragione dell'impegno per chi si batte per la legalizzazione, partendo proprio dall'economia criminale? Naturalmente ci sono due temi che si incrociano: uno è un tema di libertà e responsabilità individuale e l'altro è un tema di profitti della criminalità organizzata. Questo secondo tema, tra l'altro, può mettere d'accordo anche un elettorato, un'opinione pubblica molto diversa, cioè che si debbano regalare queste somme enormi, come la Direzione Nazionale Antimafia ha ricordato, alla criminalità organizzata, è una cosa che non può che fare scontenti tutti, anche un elettorato più orientato sulla questione ordine pubblico non può rimanere insensibile al fatto che il proibizionismo regala questi profitti per la criminalità. E poi c'è un'altra questione, credo ugualmente importante, che è la libertà e responsabilità individuale, che non significa essere superficiali rispetto ai pericoli che l'assunzione di una sostanza può provocare. In Italia ci sono 30.000 morti all'anno di alcol, 90.000 morti all'anno di tabacco e la prevenzione, l'informazione è importantissima, solo che su una sostanza legale si può fare prevenzione e informazione, su una sostanza illegale è la criminalità che governa il fenomeno, quindi non si può fare nulla, col risultato che si riempiono le carceri e si intasano i processi. Allora, Aurelio Picca oggi ha scritto questo articolo, il cui titolo è "Quelle canne che mi hanno rovinato la vita". Come sempre la sinteticità dei titoli che picchiano un po' sull'acceleratore non esprimono bene, e non possono farlo, viste le poche battute, tutto quello che c'era nel pezzo di Aurelio Picca. Io ve ne leggo solo una frase, ma poi chiedo a lui di spiegarci con lo stesso cuore, la stessa passione che ho letto nel suo intervento. E leggo questa frase: "La marijuana, l'erba, insomma, non l'ho mai potuta soffrire. Ti rincoglioniva, ridevi da ebete, invece l'hashish ti sconvolgeva per bene. A volte avevo vere visioni, si acceleravano i pensieri, le immagini, guidavo a 170 all'ora contro i tir per mandarli fuori strada con immensa calma e lucidità. Furono 3 anni senza regole emotive, anzi l'emotività debordava dentro e fuori di me". Ecco, Aurelio, la tua idea è che è meglio non legalizzare? Ma io intanto si parlava appunto dei nostri governanti che a un certo punto arretrano, perché il bene comune dovrebbe stare al di là, dovrebbe essere trasversale, una parola che io odio perché sono abbastanza, come dire, assertivo anche nella mia vita. Io vengo da una famiglia repubblicana di padre e di madre da 3 generazioni, il nonno di mio nonno ha combattuto nella battaglia romana con Garibaldi, quindi diciamo è sì o è no. Tutti i politici di un tempo, da Bacciardi a Togliatti, avrebbero pensato al bene comune. Oggi questo dovrebbe essere, uno lo fa perché serve all'Italia. Mi commuovi perché l'unica tessera di partito che ho avuto in tasca nella mia vita è stata quella repubblicana, mi commuovi proprio. Mio nonno era un mazziniano proprio, io da ragazzino facevano le feste con i garibaldini vestiti con la camicia rossa in campagna e cantava, insomma, per dire, questo è il mio, per quanto io sia cristiano, diciamo meno d'accordo con la Chiesa, un cugino esorcista, pensa un po' tutto il mio no triste. Ma Aurelio, il problema è che chi non ha la tradizione né in famiglia di alcune parti d'Italia non riesce a capirlo. Quando io dico che ragazzino facevamo i campi estivi con gli inni anticlericali, tutti pensano che me lo inventi, invece era vero, era proprio così. Vabbè, detto questo, no, io sono assolutamente contro, perché per esempio anche il detto delle nonnine, appunto di un tempo, ma si può capire, gli ascoltatori possono capirlo, si chiama droga, se facesse bene non si chiamerebbe droga, si chiamerebbe con un altro nome, ecco, no? Per sintetizzare, proprio raschiare il badile all'immaginario basso, diciamo, del vulgo, dei contadini di una volta. Ma detto questo, sono contrario perché l'hashish fa male, ma noi non stiamo parlando di liberalizzare per gli adulti, diciamo dai 25 in poi o dai 20, io la penso che ancora ragazzi e ragazze arrivati a 20 anni siano degli adulti, non sono dei bambini, certo. Poi certo che sappiamo noi che la nostra società li fa semi bambini, diciamo così, o clandestini all'adultità fino a 40 anni, però 20, mettiamo 25, possono ben scegliere, ma il problema sappiamo che i ragazzini di 13-14 anni se non meno vanno a comprare il cosiddetto fumo e questa roba fa male. Stamattina io ho ricevuto e mi ha non inorgoglito ma mi ha responsabilizzato ancora di più anche in quel pezzo che io ho scritto di getto, stavo riposando, mi hanno chiesto e mi sono messo al computer e ho scritto in un battibaleno, ma dico perché conoscevo appunto l'argomento e mi interessa. Questo psichiatra mi dice lei ha fatto un'amnesi perfetta, ma non sa dell'altro, ma io potrei dire di più, gli attacchi di panico. Io da ragazzo, io ho cominciato a 16 anni, sono nato e cresciuto ai Castelli Romani, si andava a prendere la roba ad Anzio, Aprilia e Pomezia, che erano i grandi porti, c'era più roba lì che a Roma, la Roma è arrivata quasi dopo, diciamo, a parte le elite degli anni 60, ecco. Ebbene, questa roba, lasci, c'era mischiata, ancora adesso mettono la mescalina, la metretina, anche nell'erba la mettono, mettono gocce di perché quegli sballi sono roba che dava visioni, era droga, sconvolgeva, ma non solo in quel momento che poteva essere per un anno anche molto eccitante, no? Per un ragazzo poi che aveva già un quoziente di interiorità di una certa profondità. Ma il dopo uscirne, io a un certo punto sono arrivato che guidavo a 18 anni e le braccia sprofondavano sul volante e avevo i cosiddetti collassi neurovegetativi che nei pronto soccorsi i medici non sapevano all'istante neanche cosa fossero e quelle paranoie, quegli attacchi di panico sono andati avanti per tanto tempo. Poi voglio dire, nel fine anni 70 sappiamo che per accordi più o meno segreti è stato dato via libera all'eroina, io per fortuna già caldeggiavo la letteratura e quindi poi io essendo appunto marsiniano e foscoliano ho trovato nella letteratura il lascia passare per non cadere nella polvere bianca, per cui io penso sempre ai ragazzini, non penso agli adulti, gli adulti possono fare quello che vogliono. Possono fare uso di qualsiasi tipo di sostanza, sempre all'interno della legalità o pagando dazio alla legalità se sbagliano, ma i ragazzini vanno protetti. Io credo che la battaglia su questo tema, la battaglia a favore dei ragazzini, dei figli, degli adolescenti, sia la battaglia più forte, addirittura superiore a quella della mafia. Arrivo a dire questo, è una battaglia quella a favore dei ragazzi superiore a quella della mafia. Allora, nell'articolo, oltre a descrivere la continuità che la generazione di Aurelio, che è la mia stessa generazione, io ho avuto compagni di liceo morti per eroina, Torino scorreva fiumi e come negli anni 70 ed è indimenticabile perché ci ha passato e ha perso sorella di amici e insomma era terribile nel liceo vedere che durante la ricreazione c'era chi si faceva in vena in bagno e sono cose. Poi sono cambiate le sostanze, adesso gli adolescenti sono esposti, anche se l'eroina sta tornando assunta magari in forme diverse, però il nocciolo del ragionamento di Aurelio Picca, torno da Marco Cappato, è questo, cioè è il nocciolo di chi dice dietro le formule, in questo caso quello della legalizzazione, non ci può essere la ragionevole certezza che esperienze che, leggo testualmente, lavorano sulle fragilità dei ragazzi, gli spezzano la sintassi della crescita, come può essere anche l'abuso di hashish, non rappresentino una cosa a cui non si può dire di sì. Ecco, questa tra virgolette preoccupazione espressa col calore di un'esperienza di vita, per così dire, che risposta ha Marco? Ma faccio una premessa, io sono andato in carcere per una disobbedienza civile sulle droghe, violando una legge autodenunciandomi, proprio perché ritengo che questa legge favorisce l'abuso di droghe, in particolare l'abuso di droghe dei minori. Questa legge è quella vigente oggi, non quella di quest'anno. Certo, quella vigente oggi, quella vigente oggi. Oggi si trovano davanti alle scuole non gli spacciatori di sigarette, che pure sono consumate anche dai giovanissimi, ma almeno c'è la possibilità di fare prevenzione e informazione, si trovano gli spacciatori di droghe proibite, perché la liberalizzazione non è quello che noi vogliamo, la liberalizzazione è quello che c'è oggi, la libertà mafiosa di adescare i minori e coinvolgerli nel consumo di droghe e spingerli verso il consumo di droghe sempre più pericolose. La legge che noi abbiamo depositato di iniziativa popolare con Radicali Italiani e Associazione Luca Coscioni, e siamo a congresso come associazione sabato e domenica a Torino, invece è proprio per separare, legalizzare significa separare il mercato per la libera e consapevole scelta degli adulti, perché la legge non prevede la possibilità per i minori, la nostra proposta, di accedere a queste sostanze, in modo da poter concentrare l'elemento dissuasivo ed repressivo sui giovanissimi, perché altrimenti l'argomento l'hashish fa male, è ovvio, nessuno lo contesta, soprattutto il potenziamento della cannabis grazie al proibizionismo è sempre più pericoloso, ma se questo fosse un argomento sufficiente per proibire per tutti una sostanza, una droga, in inglese drug vuol dire al tempo stesso droga e medicina, ma comunque una droga, allora noi dovremmo proibire domani mattina alcol e tabacco, e questo non mi pare una scelta che produrrebbe nulla di buono. Ci hanno provato nell'America degli anni 30 e si sono trovati la mafia di Al Capone e la criminalità che ha distrutto la società per molti anni. Allora, io ringrazio entrambi, sia Marco Cappato che Aurelio Picco. Devo dire che ci sono moltissimi sms e voglio poi, adesso andiamo alla borsa, dopo ne citerò diversi. È evidente che è chiaro sia chi è intervenuto sia a moltissimi di voi, perché il dibattito si vede che sta andando avanti da molti anni nel nostro paese, la differenza tra il fumo e le droghe sintetiche derivate attraverso processi chimici da sostanze. Quindi ci è chiaro questo, non stiamo facendo alcuna confusione. Aurelio Picca raccontava che cosa è capitato a lui e alla sua generazione. Le sostanze erano diverse, però io mi sono detto che proprio la passione del suo intervento stamattina, che avete sentito anche qua, era giusto riproporre questo argomento, perché la questione è appunto quella degli adolescenti. Poi come la pensi io la penso come Cappato da anni, ma perché da giovane poi ci siamo anche impegnati con l'organizzazione di cui facevo parte per il recupero di tanti amici e tossicodipendenti. Insomma, mi è molto chiaro che cosa provoca la dipendenza, ecco, l'ho dolorosamente vissuto e mi è molto chiaro, e non riesco a far pace con l'idea, però, con un paese che preferisce non scegliere, perché oggi comunque viviamo in una situazione che non possiamo accettare se non girandoci dall'altra parte, per esempio rispetto alla percentuale incredibile di tossicodipendenti che sta nelle nostre carceri. E non dovrebbe stare là, capito? Non dovrebbe stare là. Comunque, grazie ai nostri due ospiti, torniamo dopo la borsa e la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:37 prime 11 secondi con le vostre telefonate. L'argomento è sfumata, non ci sarà la legge, anche se sembrava, vista l'amplissima convergenza PD 5 Stelle in tutta la legislatura sulla scelta, ripeto, limitata alla legalizzazione, non la liberalizzazione, modiche quantità, Eppure è sfumata. Il PD non ha retto, preferisce evitare, quindi resterà, se passa in aula, il testo su cui anche uno dei due relatori se n'è andato dicendo non mi riconosco più in questo, un intervento correttivo solo sulla questione limitata dell'uso medico, che nel nostro paese la cannabis terapeutica è legale dal 2007, lo ricordo a chi ci ascolta da questo punto di vista. Allora, vediamo chi ci chiama, cominciamo con Corrado, che mi dicono, leggo, ci chiama dalla provincia di Verona. Corrado, prego. Buonasera Oscar, buonasera e come sempre complimenti, vi ascolto quasi sempre quando posso. Vengo subito al sodo. Al di là delle motivazioni politiche o meno che possono aver spinto a quantomeno a discutere di una legge sulla legalizzazione della cannabis, sì. Io mi dichiaro nettamente contrario alla legalizzazione, dico subito il perché. Senza fare nomi, io ho avuto un'esperienza diretta in quanto il figlio della mia compagna ha avuto un passato di tossicodipendenza e tuttora viene seguito da un CERT, ok? Sì. A me sinceramente però non so se voglio la luna nel pozzo, in uno stato che si definisce tale, vorrei sentir parlare, oltre che della legalizzazione o meno, dei problemi che portano, cioè il perché i ragazzi si buttano nella tossicodipendenza, e vorrei che come Stato fosse investito molto di più su questo fronte. Invece si sente sempre solo parlare di legalizziamo o no per togliere la droga alla criminalità organizzata. Ecco, questa mi sembra una visione molto parziale di affrontare il problema. Ecco, ascolto in diretta. Aspetta un secondo però, io sì. Ne approfitto del fatto che sei qui per chiederti come hai fatto intervenendo, quindi nella totale tutela certo. di tutte le tue le persone e le storie con cui sei venuto a contatto. Però... Sì. Nell'opinione che ti sei formato grazie a questo contatto diretto con il problema, sì. Pensi che la legislazione attuale assolva a una funzione che ti sentiresti di difendere? In che senso? Non capisco. Cioè, nel senso che noi viviamo in un sistema che è proibizionista, proibisce tutte le sostanze, certo, comprese. Certo, la... certo. Quello che avviene da decenni, la strage che avviene da decenni, perché questo è, per chi ci è passato lo sa, voglio dire, ai miei occhi, da quando ho 20 anni, mi ha dimostrato che non andava bene. Eppure è incredibile, sono passati 30 anni e più della mia vita, e sempre lì siamo rimasti. Questo è la cosa che per me è difficile buttare giù. Allora, che il proibizionismo dai tempi anche dell'alcol negli Stati Uniti, no? Non abbia mai portato a nulla di buono, questo è anche vero. Però ecco, io vorrei veramente sentire parlare della cosa anche a monte. Cioè l'emarginazione e il disagio dei giovani è il problema sul quale ce ne siamo lavati le mani anch'esso nei decenni. E questo, ripeto, la conferma di quello che dici si vede nella percentuale dei drogati in carcere, che per me è sempre stata una vergogna. Molti pensano l'hanno voluto loro, ma non è così, dipende dalla legge che è sbagliata. Ecco, questa è la mia idea. Emanuele, che ci chiama da Salerno. Buonasera Oscar, eccoci. Buonasera. Allora, partiamo dal presupposto. Non credo che le droghe, che la marijuana, la cannabis siano da considerare proprio droghe, non droghe leggere, insomma. Io mi meraviglio del fatto che siamo in Italia nel 2017, ancora si discuta se legalizzarla o meno. Mi ricollego a quello che diceva l'ascoltatore di prima. Sì, togliamola, così si toglie dalle mani della criminalità organizzata, è un dato di fatto. Tra l'altro ti ripeto, se c'è chi dice sentivo ma poi ti faresti operare da un chirurgo che ha fumato una canna, ma un chirurgo in sala operatoria non può nemmeno bere il cicchettino o non lo so, bere i superalcolici. Cioè qui c'è la possibilità di acquistare superalcolici, sigarette. Le sigarette fanno male tanto quanto la marijuana. Non lo so, nel 2017 ancora discutiamo o meno. Emanuele, come vedi, non è che discutiamo, non discutiamo, cioè le hanno smontate in commissione alla Camera proprio per evitare che in aula ci fosse un dibattito, perché il dibattito, se il testo fosse rimasto quello su cui avevano lavorato per 4 anni, avrebbe inevitabilmente esplicitato posizioni diverse all'interno dei partiti, soprattutto nel PD, per essere chiari. Ecco, ed è quindi non è che stiamo discutendo, discutiamo qua per radio. Il Parlamento non ne discute e non ne discuterà, perché il testo è stato espunto. Ohimè sì, Emanuele, siamo esattamente così. Nel frattempo, ripeto, in questi anni molti paesi in Europa e fuori dall'Europa hanno fatto delle scelte. Per non appesantire la trasmissione, non mi sono messo adesso a evocare i risultati che si vedono da quelle esperienze di diminuzione dei reati, di controllo più efficace in alcuni casi esattamente sui soggetti più a rischio, perché è ovvio che i minori sono da tutelare e così via. Però di tutte queste esperienze provate è incredibile che il Parlamento ne faccia ancora una volta carta straccia. Poi io rispetto l'opinione di tutti. Sentiamo ancora Alessio che ci chiama dalla provincia di Udine. Alessio. Sì, ciao, buon pomeriggio Oscar. La cosa che mi stupisce è l'assordante silenzio sullo specifico, cioè si sta parlando di fumo, marijuana, hashish, si confonde un po' tutto. Nell'argomento di che cosa ci sta dentro la marijuana, e non il fiore, non le foglie, ma il fiore, THC, CBD e tutti gli altri cannabinoidi che hanno effetti stupefacenti o effetti terapeutici, lo prevede persino certo. La legislazione nazionale e regionale. Per esempio in Friuli Venezia Giulia, piuttosto che nelle Marche, in tante altre regioni italiane hanno esatto. Legiferato. Al signore che ha chiamato da Verona, fa due passi a Rovigo, va dal dottor Grassi, che ha trasformato l'istituto per la barbabietola in un studio invece della pianta, sì. E si fa dare due indicazioni più precise, così parlerà informato, come penso che dovrebbero farlo anche i politici nel caso vogliano legiferare in materia. Fatta questa premessa, tu rispetto alla legge attuale e il principio della legalizzazione, come la pensi? Che è assurdo assumere delle sostanze senza sapere che cosa ci sta al loro interno. Per cui è vero che bisogna tutelare i minori e penso che una legge sicuramente lo dovrebbe fare, penso che lo farà, sarebbe assurdo il contrario. E per invece i maggiorenni, sapere che cosa stanno assumendo e perché lo assumono. Aspetta, qui stiamo parlando, quelli che dici tu sono i presupposti di una grande battaglia culturale sulla consapevolezza delle scelte di consumo individuale. La legge ha un altro scopo, quello di disciplinare o meno la punibilità di sostanze. E io perfetto. Continuo a dire, noi siamo riusciti perseguendo da decenni la via della punibilità a evitare quello che io insieme a te mi augurerei, cioè la consapevolezza vera di che cosa si assume, di quali sono i principi attivi, di quali sono gli effetti, di come possono variare rispetto alle condizioni di salute e metabolismo di ciascuno, perché poi di questo anche bisogna essere consapevoli, eccetera, eccetera. Invece riusciamo a tenere tutto in una patina, virgola, che virgola, stante la punibilità, quindi il regime repressivo, virgola, induce al silenzio generale, spinge i giovani a farlo, arricchisce la criminalità e ipocritamente poi ci voltiamo tutti dall'altra parte. Questo è il motivo vero per cui io sarei per un cambio di sistema. Però il punto è che la cosa che non riesco a capire è come con tante persone che come te giustamente dicono ma lo sapete di che cosa state parlando, e non stiamo parlando di una cosa positiva come ovvio, io condivido questo, la mia unica droga di cui però conosco gli effetti è da sempre il sigaro toscano e purtroppo ne conosco gli effetti e naturalmente non ne faccio a meno comunque. Le altre io da quando ero ragazzino ho detto no grazie, perché avevo un po' la voglia prima di capire che cos'era e non mi interessavano. Io ho vissuto in un mondo in cui la scelta straordinariamente maggioritaria era diversa invece. Ho perso amici, ho visitato i centri, sono stato due volte anche a visitare delle carceri e non riesco a capire come possiamo fare pace, ormai sono un genitore, con l'idea di non vedere tutto questo. Mi è capitato con amiche e amici di fargli mettere gli occhi su cosa succedeva nel cortile antistante, i ginnasi e licei che frequentavano i figli, perché loro dicevano no, figurati, i miei figli no. Dico, andiamo la mattina, secondo te quello che cosa sta dando? Lo sai a che prezzo glielo sta dando? Quindi ecco, lo dico ponendomi il problema civilmente, da cittadino informato, da padre, un tempo me lo sono posto da figlio, credo che il Parlamento, secondo me, abbia sbagliato per l'ennesima volta. Meglio un dibattito con posizioni chiare, libertà di coscienza nei partiti, che rifugiarsi nell'ipocrisia, che fa vittime, che continua a condannare alla dipendenza non informata, come giustamente diceva Alessio, migliaia e migliaia di persone, e che fa fare affari incredibili ai criminali. Allora, adesso andiamo al traffico e poi... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, e in questi ultimi minuti dobbiamo fare un aggiornamento perché abbiamo parlato, abbiamo dedicato a Roma, ricordate, una puntata due giorni fa, dicendo a Roma qualcosa si muove, e il governo, il ministro Calenda ha presentato questo rapporto molto ben fatto, il benchmark con le altre capitali europee e con le altre aree metropolitane italiane su dove va peggio Roma. C'è una riflessione che sembra finalmente incardinarsi sulle priorità di un grande nuovo progetto, forse anche un intervento di legge, non in questa legislatura ma nella prossima. Abbiamo sentito diversi esponenti politici che dicevano sì, bisogna uscire dalla logica solo del chiedere alla Raggi di fare miracoli. La Raggi miracoli non li farà, ma a prescindere dal giudizio che si può avere sulla Raggi, che oggi si becca anche una richiesta di rinvio a giudizio per falso e non per abuso d'ufficio. Ma detto tutto questo, la novità, almeno visto che noi davamo per scontato che il sindaco di Roma e il presidente della Regione Lazio fossero felici del fatto che il governo e Calenda mettessero a disposizione questo materiale e soprattutto convocassero un tavolo. Invece, fino a quest'oggi, le cose stanno diversamente, quindi mi sono grattato la testa dicendo sono un cretino io per primo, allora, se credo che sia una cosa positiva. Allora, ne ha scritto oggi e quindi gli ho chiesto di aggiornarci sulla questione romana sul Foglio, Salvatore Merlo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Salvatore. Ciao. Allora, che cosa è successo all'appello di Calenda dicendo ecco i dati, incontriamoci, vediamo insieme come fare, sindaco e presidente della regione? Dunque, sono partite due identiche lettere di convocazione dalla scrivania del ministro dello sviluppo Carlo Calenda, una diretta a Virginia Raggi, sindaco di Roma, e l'altra a Nicola Zingaretti, che è il presidente della regione Lazio, ovviamente. Calenda chiedeva la disponibilità istituzionale a partecipare il 4 ottobre a questo tavolo per la definizione del piano per il rilancio industriale di Roma, a cui facevi riferimento tu. Ora, Zingaretti ha risposto, dice lui. Ci ho parlato e mi ha spiegato di aver risposto, ma la sua lettera si è praticamente perduta all'ufficio protocollo del MISE, che è un po' misterioso, però pare che sia effettivamente così. Questa pomeriggio, dopo l'articolo del Foglio, è spuntata fuori dall'ufficio protocollo dello sviluppo economico la lettera con la quale Zingaretti rispondeva. Quella che invece non è ancora, non si sa che fine abbia fatto, è quella di Virginia Raggi. Anzi, quanto ne so, Calenda in questo esatto momento sta telefonando in Campidoglio per sollecitare una risposta del sindaco. La cosa più curiosa di tutto questo è che, ammesso che ci sia stato davvero un errore all'ufficio protocollo, ma, e vabbè, le due istituzioni facciamo finta di crederci, ecco. No, ma possiamo anche crederci, i ministeri si sono un po' svuotati, va bene. Mettiamo che è andata certamente così, però ti assicuro che la girandola di sospetti, di retropensieri, di malizie che questo ritardo di Zingaretti ha provocato ha messo radici su un problema vero, cioè che questo piano Calenda non piace a moltissime persone. Non so se non piace la Raggi, se è per questo che non risponde, ma certamente pare che ci siano degli ostacoli anche nel governo, cioè a quanto pare Calenda si è spinto un po' oltre la posizione del Partito Democratico sostanzialmente, e lasciamo fare disastro alla Raggi, oh, poi, santo Dio. E poi arriviamo dopo. Ecco, per questo ti dirò che, avendolo capito anch'io, per questo ti ho chiesto oggi di tornare su questo argomento, perché io a questo punto devo chiedere scusa agli ascoltatori, perché io nella mia innata, radicata capacità di fare errori, malgrado il disincanto con cui osservo da anni la politica italiana, ho creduto davvero che ci fosse un'iniziativa capace di andare a noce del problema senza guardare la convenienza breve, quella elettorale. Come ovvio, ci sono grandi partiti su posizioni contrapposte su Roma, c'è chi ha l'interesse a rimarcare che la Giunta Raggi ha fatto enormi errori, ruota gli assessori, sembra di vivere sulla luna a volte, e quindi non è in grado di affrontare la grande sfida. Però, siccome il punto è che oramai è chiaro a chiunque che la quantità di risorse necessarie, A, B, la tipologia di interventi di medio-lungo periodo da mettere in campo per l'economia della grande area metropolitana e del Lazio, C, il grande problema dell'architettura istituzionale di una capitale che non ha strumenti analoghi a quelli delle capitali negli altri ordinamenti, sono tutte e tre questioni di lungo periodo. Io ho visto l'iniziativa di Calenda come una cosa che dice: oh, finalmente c'è una politica che va al di là dell'interesse a breve contrapposto. E quindi mi sono sbagliato, cari ascoltatori, evidentemente continuo a essere troppo ingenuo, non è vero Salvatore? Ma sai, qui ci sono troppi interessi politici di potere contrapposti e non si salva nessuno. Cioè, da un lato c'è la sindaca che avrà anche ereditato un disastro, va bene, lo sappiamo, però questo disastro dopo più di un anno di governo è solo peggiorato. Dall'altro si avvicinano le elezioni, quindi, come dire, il governo è in scadenza e non hanno molta voglia di dare una mano alla Raggi, che intanto si comporta anche male nei loro confronti, perché mi risulta che la sindaca fa disertare sistematicamente le riunioni. Lo sai che si fanno, cioè sì, sì. Il debito di Roma è commissariato, no. E gli inviati del comune non vanno alle riunioni della commissione presieduta da Paola De Micheli, che è pazzesco, non è solo uno sgarbo istituzionale, ma è una cosa di assoluta incapacità di collaborare dell'amministrazione comunale con le altre amministrazioni, con il governo centrale. E quindi in questo quadro, esattamente con lo stesso spirito con cui non si faranno in questo Parlamento le leggi dallo Ius Soli alla disposizione delle ultime volontà alla legalizzazione della droga, come abbiamo visto oggi, come vedete c'è una coerenza e non si faranno nemmeno, non si getteranno con ogni probabilità nemmeno le premesse per un progetto economico e istituzionale di medio-lungo periodo per far uscire Roma dalla sua tenebra di grandi, grandi, serissimi problemi che sono figli di decenni. Io ringrazio Salvatore Merlo perché ci ha consentito di capirlo molto meglio oggi e chiedo ancora una volta scusa per la mia ingenuità agli ascoltatori. Appuntamento alle 8:15 domani con me e Luca Tellese a 24 mattino. Non 24 mattina, come ho sempre detto fino ad oggi, mi hanno tirato le orecchie, e alle 16 domani pomeriggio alla versione Oscar.